Due fogli di carta pergamenata crema, uno di riserva, due buste. Quando ero da Winston Haley, il saggio Bloom da Daily Henry Flower comperò. Non sei felice a casa tua? Fiore per consolarmi e uno spillo porta male. Vuol dire qualcosa. Linguaggio dei fiori. Era una margherita. Innocenza. Ecco cos'è. Ragazza rispettabile incontro dopo la messa. Grazie mille tante. Il saggio Bloom adocchiò sulla porta un avviso, un'ondulante sirena che fumava fra amabili onde. Fumate sirene, la boccata più fresca di tutte. Grondante chioma, derelitta d'amore. Per un uomo. Per Raoul. Adocchiò e vide di lontano sul ponte Essex un gaio cappello sopra un calessino. Terza volta. Coincidenza? Tinnulo su molleggianti gomme scarrozzava dal ponte alla riva Ormond. Seguire. Arrischiare. Affrettarsi. Alle 4. Vicino ora. Fuori. 2 pence, signore, si arrischiò a dire la commessa. Ah, me ne scordavo, scusi. E 4. Alle 4, lei. Seducente sorrise a Blu lui che. Blu sorrì a Fred and. Era. Credi d'essere il solo pesce nel mare? Lo fa con tutti, per uomini. Nel silenzio sonnolento, Oro si chinava sulla pagina. Dalla sala giunse un richiamo, lento a morire. Era un diapason che aveva l'accordatore, che lo aveva scordato e che lui ora toccava. Ancora un richiamo, che lui ora teneva sospeso, sì che quello ora palpitava. Senti? Palpitava. Puro, più puro, soave e più soave la sua ronzante forchetta, più lento a morire il richiamo. Pat pagò per la bottiglia di gazzosa del cliente e al di sopra di bicchiere, vassoio e bottiglia di gazzosa, avanti di partirsi, sussurrò, calvo e tribolato, con Miss Deuce. Le vivide stelle vaniscono. Un canto senza voce cantava dall'interno, cantando. Sorge il mattino. Una duodecima di note alate cinguettò una fulgida acuta risposta al tocco di mani sensibili. Fulgidamente i tasti, tutti baluginanti, legati, tutti arpi cordanti, invocavano una voce che intonasse la melodia del rorido mattino, della giovinezza, del congedo d'amore, del mattino di vita, del mattino d'amore. La rugiada in perla. Le labbra di Lenehan al di sopra del banco balbutivano un tenue fischio di lusinga. Ma guardi da questa parte, disse, o semiramide. Tintinnio di calessino accostò al marciapiede e si fermò. Ella si eresse e chiuse la sua lettura, semiramide, irritata, derelitta, sognante si eresse. È caduta da sé o l'hanno spinta? Le chiese. Rispose, sprezzante. Non far domande e non sentirai bugie. Signorilmente, mente da signora. Le eleganti scarpe gialle di Blazes Boylan scricchiolarono sul pavimento del bar al suo incedere. Sì, oro da presso accanto a bronzo da lungi. Lenehan udì e conobbe e salutò. Vedete approssimarsi l'eroe conquistatore. Tra la vettura e la vetrina, camminando cautamente, passò Bloom, eroe inconquistato. Vedere mi potrebbe. Il sedile dove stava, caldo. Nero cauto gattone andava verso la borsa da legale di Richie Goulding, alzata in aria a mo' di saluto. E io da te? Mi han detto che eri da queste parti, disse Blazes Boylan. Si toccò in onore della bionda Miss Kennedy l'attesa della paglietta sulle 23. Lei gli sorrise. Ma sorella Bronzo la vinse nel sorriso, sprimacciando per lui una più calda chioma, un seno e una rosa. Boylan, l'elegantone, ordinò le libagioni. Cosa prende? Un bicchiere di birra scura? Una scura, prego. E una prunella per me. Niente telegramma ancora? Ancora no. Alle 4 lui. Chi ha detto le 4? Il pomo d'Adamo sporgente e le sventole rosse di Cowley sulla porta dell'ufficio dello sceriffo. Evitare. Golding ancora di salvezza. Che fa Lormond? Vettura in attesa. Attendere. Olà, dove si va di bello? A mangiare qualcosa? Anch'io, proprio ora. Entriamo qui. Come, Lormond? Il più conveniente di Dublino. Davvero? Sala da pranzo. Starci quieti. Vedere senza essere visti. Allora quasi quasi vengo con lei. Forza! Ricci entrò per primo. Bloom seguì la borsa. Mangiare da principi. Miss Deuce levò il braccio in alto per prendere un boccione, tendendo il braccio di raso, il busto che quasi rompeva, tanto in alto. Oh, ansimò Lenehan, tenendo il fiato a ogni tesa. Oh! Ma facilmente ella afferrò la preda e giù la trasse trionfante. Perché non cresce un po'? Chiese Blazes Boylan. Ella Bronzo, versando dall'orciolo obliquo spesso liquido e sciropposo per le sue labbra, lo guardava fluire. Fiore all'occhiello, chi gliel'ha dato? E sciroppava con la voce. Nelle botti piccole c'è il vino buono, cioè a dire lei. Precisa versava pruno sciropposa prunella. Alla salute, disse Blazes. Gettò giù una grossa moneta. Moneta risuonò. Fermo, disse Lenehan, finché io. Salute, augurò, levando la birra ebolliente. Sceptre vincerà a paletti, disse. Mi ci son buttato un po' troppo, disse Boylan, ammiccando e bevendo. Non per me, sa, ghiribizzo di un'amica. Lenehan beve ancora e ghignò alla birra inclinata e alle labbra di Miss Deuce che quasi canticchiavano, non chiuse, il canto marino che le labbra di lei avevano trillato. Ai dolores, i mari orientali! La pendola ronzò. Miss Kennedy passò di là. Fiore, chissà chi l'ha dato. Portando via il vassoio del tè. La pendola rintoccò. Miss Deuce prese la moneta di Boylan, batté un colpo secco sulla tastiera della cassa. Tintinnò. La pendola rintoccò. La bella d'Egitto rimestò e frugò nel cassetto e canticchiò e porse monete di resto. Guardare ad ovest. Rintocco. Per me. Che ora dice? Chiese Blazes Boylan. Le 4? Alla pendola. Lenehan, occhietti famelici su di lei canticchiante, sul seno canticchiante, tirò per la manica Blazes Boylan. Udiamo l'ora, disse. La borsa di Goulding, Collis, Ward, guidò Bloom fra tavole fiorite di segala platinata di blu. Incerto scelse con agitata certezza, fra l'attenzione del calvo Pat, una tavola vicino alla porta. Esser vicini. Alle 4. Se n'è dimenticato. Forse è un trucco. Non andare. Aguzza l'appetito. Io non potrei. Attendi. Attendi. Pat, attento, attendeva. Scintillante bronzo azzurro occhiava il fiocco e gli occhi azzurro cielo di Blazzurro. Andiamo, insisteva Lenean. Non c'è nessuno, non l'ha mai sentito. Alle labbra di Flora s'appressava. Alta, una nota alta scampanò acuta, limpida. Bronzo Dius, congiunta alla sua rosa, or saliente, or ritrosa, cercava il fiore e gli occhi di Blazis Boylan. Per favore, per favore! Invocava fra ricorrenti frasi di devozione. Mai ti potrei lasciare. Tra un pochinino, promise Miss Deuce pudicamente. Ma no, ora, insisteva Lenean. Sono nella cloche. Via, non c'è nessuno. E la guardò. Presto, Miss Ken fuori portata d'orecchio, chinata a un tratto. Due volti infiammati la osservavano chinarsi. Tremuli gli accordi si staccarono dal motivo, lo ritrovarono, accordo perduto, e lo perdettero e ritrovarono smorente. Andiamo, via, sonè! Chinandosi s'afferrò un lembo di gonna sopra il ginocchio. Differiva, ancora li tormentava. Chinandosi in sospeso con occhi malandrini, sonné! Schiocco! Lasciò libera un tratto di scatto la giarrettiera elastica estesa, schioccalda contro la coscia schioccante, caldicalzata di donna. La cloche! Gridò Lenean giubilante, ammaestrata dal proprietario. Niente imbottitura lì. Lei sorrise ghignò sussiegosa. Addolorata, non sono dei begli. Ma scorrendo verso la luce, Mite sorrise a Boylan. Lei è la quintessenza della volgarità, disse scorrendo. Boylan occhieggiava, occhieggiava. Riversò il calice accostato alle grosse labbra. Scolò il suo picciol calice, sorbendo le ultime grosse gocce violette sciroppose. I suoi occhi ammaliati seguivano, seguivano la testa scorrente per il bar lungo specchi, arco dorato per bicchieri da gazzosa, vino del Reno e chiaretto baluginanti, una conchiglia spinosa, ove concertava, specchiava, bronzo con bronzo più solare. Sì, bronzo da presso. Tesoro, addio. Scappo via, disse Boilente d'impazienza. Sospinse via rapido il calice, afferrò il resto. Aspetti un minutino, supplicò Lenian bevendo in fretta. Volevo dirle, Tom Rochford, vada all'inferno, disse Blazes Boylan andandosene. Lenian s'ingozzò per andare. Ah, gli prudono le corna? Disse. Aspetti, vengo. Seguì le furiose scarpe scricchiolanti, ma si trasse agilmente da parte sulla soglia, salutando forme, una massiccia con una sottile. Come sta, Mr. Dollard? Lei? Rispose il vago basso di Ben Dollard, abbandonando per un momento i guai di padre Cowley. Non ti darà più noia, Bob. Alf Bergan dirà una parolina a lungo. Questa volta gli mettiamo la pulce nell'orecchio a quel Giuda Iscariota. Il sospiroso Mr. Dedalus attraversò la sala, col dito palpandosi la palpebra. Oh, se lo faremo! Stornellò allegramente Ben Dollard. Forza, Simon, dacci qualcosa del repertorio. Abbiamo sentito il pianoforte. Il calvo Pat. Tribolato cameriere attento, attendeva ordinazioni di bevande. Power per Ricci e Bloom? Vediamo. Non gli facciamo fare due volte la strada, i suoi calli. Le 4 ore. Che caldo tiene questo nero. E poi i nervi, si capisce. Rifrange, vero, il calore. Vediamo. Sidro, sì, una bottiglia di sidro. Cosa c'è? Disse Mr. Dedalus. Stavo solo improvvisando, bello mio. Forza, forza! Esclamò Ben Dollard. Lungi da me, grevi crucci. Forza, Bob! Entrò Dambio Dollard, brache abbondanti, davanti a loro. Acchiappate quell'uomo coi, acchiappatelo presto, in sala. Piombò giù Dollard, sullo sgabello. Le sue zampe gottose piombarono sugli accordi. Piombarono, si fermarono di colpo. Il calvo Pat, sulla soglia, incontrò Oro senza tè di ritorno. Tribolato voleva Power e Sidro. Bronzo da presso, la vetrina osservava, bronzo da lungi. Tinnulo, un tintinnio del calessino.